ad alta voce, leggere il Decamerone. Il Marchese di San Luzzo. Da prieghi dei suoi uomini costretto di pigliar moglie, per prenderla a suo modo piglia una figliuola d'un villano, della quale ha due figliuoli, li quali le fa veduto d'uccidergli. Poi, mostrando lei essergli rincresciuta e avere altra moglie presa, a casa facendosi ritornare la propria figliuola come se sua moglie fosse, lei, avendo in camicia cacciata e a ogni cosa trovandola paziente, più cara che mai in casa tornatalasi, i suoi figliuoli grandi le mostra e come marchesana l'onora e fa onorare. Finita la lunga novella del re, molto a tutti nel sembiante piaciuta, Dioneo, ridendo, disse: il buono uomo che aspettava la seguente notte di fare abbassare la coda ritta della fantasima avrebbe dati men di due denari di tutte le lode che voi date a Messer Torello. E appresso, sappiendo che a lui solo restava il dire, incominciò: mansuete mie donne, per quel che mi paia, questo dì d'oggi è stato dato a re e a soldani e a così fatta gente. E perciò, a ciò che io troppo da voi non mi scosti, vo ragionar d'un marchese non cosa magnifica, ma una matta bestialità, come che ben ne gli seguisse alla fine, la quale io non consiglio alcun che segua, perciò che gran peccato fu che a costui ben avvenisse. Già è gran tempo fu, tra marchesi di San Luzzo, il maggior della casa un giovane chiamato Gualtieri, il quale, essendo senza moglie e senza figliuoli, in niuna altra cosa il suo tempo spendeva che in uccellare e in cacciare, né di prender moglie né d'aver figliuoli alcun pensiero avea, di che egli era da reputar molto savio. La qualcosa ai suoi uomini non piacendo, più volte il pregaron che moglie prendesse, a ciò che egli senza erede né essi senza signor rimanessero, offerendosi di trovargli il tale e di si fatto padre e madre discesa, che buona speranza se ne potrebbe avere e esso contentarsene molto. A quali Gualtieri rispose: amici miei, voi mi stringete a quello che io del tutto aveva disposto di non far mai. Considerando quanto grave cosa sia a poter trovare chi coi suoi costumi ben si convenga, e quanto del contrario sia grande la copia, e come dura vita sia quella di colui che a donna non bene a sé conveniente s'abbatte. E il dire che voi vi crediate a costumi dei padri e delle madri le figliuole conoscere, donde argomentate di darlami tal che mi piacerà, è una sciocchezza. Con ciò sia cosa che io non sappia dove i padri possiate conoscere, né come i segreti delle madri di quelle, quantunque pur conoscendogli siano spesse volte le figliuole a padri e alle madri dissimili. Ma poiché pure in queste catene vi piace d'annodarmi. Io voglio essere contento. E a ciò che io non abbia da dolermi d'altrui che di me, se mal venisse fatto, io stesso ne voglio essere il trovatore, affermandovi che cui che io mi tolga, se da voi non fia come donna onorata, voi proverete con gran vostro danno quanto grave mi sia l'aver contra mia voglia presa mogliere a vostri prieghi. I valenti uomini risposero che erano contenti sol che esso si recasse a prender moglie. Erano a Gualtieri buona pezza piaciuti i costumi d'una povera giovinetta che d'una villa vicina a casa sua era, e parendoli bella assai, estimò che con costei dovesse potere aver vita assai consolata e, perciò senza più avanti cercare, costei propose di volere sposare, e fattosi il padre chiamare con lui, che poverissimo era, si convenne di torla per moglie. Fatto questo, fece Gualtieri tutti i suoi amici della contrada adunare e disse loro: amici miei, egli vi è piaciuto e piace che io mi disponga a tor moglie, e io mi vi son disposto, più per compiacere a voi che per desiderio che io di moglie avessi. Voi sapete quello che voi mi prometteste, cioè d'esser contenti e d'onorar come donna qualunque quella fosse che io togliessi. E perciò venuto è il tempo che io sono per servare a voi la promessa e che io voglio che voi a me la serviate. Io ho trovata una giovane secondo il cuor mio, assai presso di qui, la quale io intendo di tor per moglie e di menarlami tra qui e pochi dì a casa. E perciò pensate come la festa delle nozze sia bella e come voi onorevolmente riceverla possiate, a ciò che io mi possa della vostra promission chiamar contento, come voi della mia vi potrete chiamare. I buoni uomini lieti tutti risposero ciò piacer loro, e che fosse chi volesse, essi l'avrebbero per donna e onorerebbonla in tutte cose siccome donna. E appresso questo tutti si misero in assetto di far bella e grande e lieta festa, e il simigliante fece Gualtieri. Egli fece preparar la nozze grandissime e belle e invitarvi molti suoi amici e parenti e gran gentili uomini e altri d'attorno. E oltre a questo fece tagliare e far più robe belle e ricche al dosso d'una giovane la quale della persona gli pareva che la giovinetta la quale aveva proposto di sposare. E oltre a questo apparecchiò cinture e anella e una ricca e bella corona e tutto ciò che a novella sposa si richiedea. E venuto il dì che alle nozze predetto avea, Gualtieri in sulla mezza terza montò a cavallo e ciascuno altro che a onorarlo era venuto. E ogni cosa opportuna avendo disposta disse: signori, tempo è d'andare per la novella sposa. E messosi in via con tutta la compagnia sua, pervennero alla villetta e, giunti a casa del padre della fanciulla, e lei, trovata che con acqua tornava dalla fonte in gran fretta per andar poi con altre femmine a veder venire la sposa di Gualtieri, la quale, come Gualtier vide, chiamatala per nome, cioè Griselda, domandò dove il padre fosse. Al quale quale ella vergognosamente rispose: «Signor mio, egli è in casa». Allora Gualtieri, smontato e comandato a ogni uomo che l'aspettasse, solo se ne entrò nella povera casa, dove trovò il padre di lei, che aveva nome Giannucole, e dissegli: «Io sono venuto a sposar la Griselda, ma prima da lei voglio sapere alcuna cosa in tua presenza». E domandolla se ella sempre, togliendola egli per moglie, si ingegnerebbe di compiacergli e di niuna cosa che gli dicesse o facesse non turbarsi, e se ella sarebbe obbediente, e simili altre cose assai, delle quali ella a tutte rispose di sì. Allora Gualtieri, presala per mano, la menò fuori e, in presenza di tutta la sua compagnia e d'ogni altra persona, la fece spogliare ignuda. E fattisi quegli vestimenti che fatti aveva fare, prestamente la fece vestire e calzare, e sopra i suoi capelli, così scarmigliati come erano, le fece mettere una corona. E appresso questo, maravigliandosi ogni uomo di questa cosa, disse: «Signori, costei, ecco lei la quale io intendo che mia moglie sia, dove ella me voglia per marito». E poi a lei rivolto, che di sé medesima vergognosa e sospesa stava, le disse: «Griselda, vuoimi tu per tuo marito?» «Signor mio, sì». «E io voglio te per mia moglie». E in presenza di tutti la sposò. E fattala sopra un pallafren montare, orrevolmente accompagnata, a casa la si menò. Quivi furono le nozze belle e grandi, e la festa non altramenti che se presa avesse la figliuola del re di Francia. La giovane sposa parve che co vestimenti insieme l'animo e costumi mutasse. Ella era, come già dicemmo, di persona e di viso bella, e così come bella era, divenne tanto avvenevole, tanto piacevole, tanto costumata, che non figliuola di Giannucole e guardiana di pecore pareva stata, ma d'alcun nobile signore, di che ella faceva maravigliare ogni uom che prima conosciuta l'avea. E oltre a questo era tanto obbediente al marito e tanto servente, che egli si teneva il più contento e il più appagato uomo del mondo. E similmente verso i sudditi del marito era tanto graziosa e tanto benigna, che niun venera che più che sé non l'amasse e che non l'onorasse di grado. Tutti, per lo suo bene e per lo suo stato e per lo suo esaltamento pregando, dicendo, dove dir soleano Gualtieri aver fatto come poco savio d'averla per moglie presa, che egli era il più savio e il più avveduto uomo che al mondo fosse, perciò che niuno altro che egli avrebbe mai potuta conoscere l'alta virtù di costei nascosa sotto i poveri panni e sotto l'abito villesco. E in breve, non solamente nel suo marchesato, ma per tutto, anzi che gran tempo fosse passato, seppe ella si fare che ella fece ragionare del suo valore e del suo bene ad operare, e in contrario rivolgere se alcuna cosa detta s'era contro al marito per lei quando sposata l'avea. ella non fu guari con Gualtieri dimorata che ella ingravidò e al tempo partorì una fanciulla, di che Gualtieri fece gran festa. Ma poco appresso entratogli un nuovo pensier nell'animo, cioè di volere con lunga esperienza e con cose intollerabili provare la pazienza di lei, e primieramente la punse con parole, mostrandosi turbato e dicendo che i suoi uomini pessimamente si contentavano di lei per la sua bassa condizione, e specialmente poi che vedevano che ella portava figliuoli, e della figliola che nata era tristissimi, altro che mormorar non facevano, le quali parole, udendo la donna, senza mutar viso o buon proponimento in alcuno atto, disse: Signor mio, fa di me quello che tu credi che più tuo onore o consolazione sia, che io sarò di tutto contenta. Sì, come colei che conosco, che io son da men di loro e che io non era degna di questo onore al quale tu, per tua cortesia, mi recasti. Questa risposta fu molto cara a Gualtieri, conoscendo costei non essere in alcuna superbia levata per onore che egli o altri fatto l'avesse. Poco tempo appresso, avendo con parole generali detto alla moglie che i sudditi non potevan patir quella fanciulla di lei nata, informato un suo familiare, il mandò a lei, il quale, con assai dolente viso, le disse: Madonna, se io non voglio morire, a me convien far quello che il mio signor mi comanda. Egli m'ha comandato che io prenda questa vostra figliuola e ch'io... E non disse più. La donna, udendo le parole e vedendo il viso del familiare e delle parole dette ricordandosi, comprese che a costui fosse imposto che egli l'uccidesse, perché prestamente presala della culla e baciatala e benedetola, come che gran noia nel cuor sentisse, senza mutar viso in braccio la pose al familiare e disse: Te fa compiutamente quello che il tuo e mio signore t'ha imposto, ma non la lasciar, per modo che le bestie e gli uccelli la divorino, salvo se egli non ti comandasse. Il familiare, presa la fanciulla e fatto a Gualtier sentire ciò che detto aveva la donna, maravigliandosi egli della sua costanzia, lui con essa ne mandò a Bologna a una sua parente, pregandola che, senza mai dire cui figliuola si fosse, diligentemente allevasse e costumasse. Glossario. nel sembiante piaciuta? Nel sembiante. L'espressione equivale a dire a giudicare, stando ai loro lineamenti, al loro aspetto. Il suo tempo spendeva che in uccellare e in cacciare. Uccellare. Il verbo significa andare a caccia degli uccelli. Amici miei, voi mi stringete a quello che io del tutto aveva disposto di non fare. Stringete. Il verbo vale per costringete, obbligate. Io stesso ne voglio essere il trovatore, affermandovi che... Il trovatore. Il sostantivo equivale al suo significato letterale, cioè colui che trova. E che non l'onorasse di grado. Tutti di grado. Lo so bene, la locuzione significa di buon grado, volentieri. Sotto i poveri panni e sotto l'abito villesco. Villesco. L'aggettivo significa contadinesco, rustico. Dal latino villam, ovvero casa di campagna, podere. Si vedevano che ella portava figliuoli e della figliola che... Portava. Il verbo riferito a figliuoli significa generava. Dioneo è senza dubbio l'unico dei novellatori ai quali il Boccaccio conferisce un carattere e dunque anche una funzione narrativa ben riconoscibili. E Dioneo non si smentisce. Ci sorprende ancora una volta con una vicenda altamente melodrammatica, veramente strappalacrime, del tutto estranea al suo repertorio. Solo in un guizzo finale riprende la sua parte di Spurcissimum Dioneum, parlatore rozzo, sozzo, discendente cioè di una divinità maligna, e cioè di Diona, genitore di Venere. Lo fa con una battuta equivoca che, abbassando notevolmente la tensione emotiva, suona al tempo stesso condanna delle rigide e mai più non audite, cioè inaudite, prove da Gualtier fatte. A Gualtieri, dice infatti Dioneo, avrebbe fatto bene incontrare una donna che, una volta cacciata da casa, s'avesse sia un altro fatto scuotere il pilliccione, che uscito ne fosse una bella roba. E riconosciamo finalmente i consueti modi giullareschi di Dioneo. In proposito è stato opportunamente rilevato che il Boccaccio ha promosso il nome Dioneo a nome proprio da semplice nome comune, quale era in una lettera giovanile. Una promozione con ciò stesso a personaggio, che il Boccaccio attua già nell'Ameto e riprende poi nel Decameron, secondo quella trasmigrazione onomastica che in lui è un po' vezzo, un po' esercizio scaramantico, un po' mania autografa. Ad alta voce, leggere il Decamerone, regia di Diego Marras, a cura di Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.